spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Per parlare di noi, proprio così, a spunti di vista, oggi cerchiamo di tracciare un ritratto della società. Ci chiederemo infatti, siamo più bacchettoni? Siamo più liberi oggi? E come ci consideriamo? Cos'è ammissibile? Partiamo da un'indagine che è stata pubblicata dalla stampa di ieri sull'atteggiamento degli italiani rispetto alle questioni etiche. Forse oggi oscilliamo tra maggiore libertà, che secondo alcuni può portare anche alla deriva dell'indifferenza. Comunque, indubbiamente, ci sono state nell'ultimo decennio delle trasformazioni culturali che, certo, non si lasciano fotografare e descrivere a fondo da un sondaggio. Però questo sondaggio ha avuto il merito di aver messo in luce gli orientamenti della popolazione italiana. Per esempio, quali sono i comportamenti che oggi hanno un grado di ammissibilità molto elevato e che erano assolutamente inconcepibili fino a poco tempo fa? E ancora, la politica descrive bene quello che è il sentire degli italiani? Le leggi rispecchiano, sostengono le scelte o sono ancora una volta indietro rispetto a quello che di fatto si fa? Vi propongo un esempio. La convivenza oggi è accettata dal 90,2% degli interpellati del sondaggio. Fare uso di droghe leggere, invece, sull'altro versante, non ha un'accettazione a questi livelli. Solo il 44,2%. Prostituirsi, un altro comportamento, 27,4%. Cioè, questi ultimi due atteggiamenti rispetto alla convivenza non hanno un'accettazione da piccole cifre, marginale, però non riscuotono quei consensi, quel tasso di ammissibilità del ricorso alla fecondazione artificiale, solo per dirne uno, o avere un figlio fuori dal matrimonio. Sapete quanti degli italiani si dicono d'accordo sulla fecondazione eterologa? 84,88%. Insomma, cifre anche sorprendenti in questo sondaggio, che ha il merito quantomeno di segnalare uno scarto tra come ci percepiamo, come si descrivono gli italiani, che sempre parlano di se stessi come oscurantisti cresciuti all'ombra del Vaticano, frustrati, e come invece sono davvero. Tutto questo dalle 8:30, quando prenderemo in esame le proposte che sono sul tavolo anche a livello governativo per quello che riguarda la regolamentazione dei diritti civili. Lo faremo con un membro del governo che ci anticiperà alcune delle riforme che dovrebbero scattare dall'autunno, e poi con i nostri ospiti, naturalmente con i vostri interventi, dalle 9 alle 10. Vi ricordo il numero di telefono 800 24 00 24, potete chiamare da subito e prenotarvi. Per intervenire via SMS 349 238 6666. Prima però noi andiamo a incontrare gli altri corrispondenti stranieri. Visti da fuori. Eh sì, loro arrivano qua, ci guardano, ci descrivono, ci sopportano, ci tollerano, a volte si innamorano di noi. Sono i corrispondenti stranieri, quelli che costruiscono la nostra immagine nel mondo. Testate giornalistiche, radio, televisioni, blog, social network. Frequentano un po' di tutto e fanno sì che quando arrivi altrove sei già stato anticipato da un pregiudizio, possiamo dire così, a volte da un cliché, ma a volte invece da osservazioni molto taglienti che sfuggono al nostro sguardo, sempre abituato in qualche modo, assuefatto a ciò che si snoda sotto gli occhi. Oggi con noi c'è un tedesco, lo saluto, lo ringrazio per il suo tempo, buongiorno, benvenuto David Greiner. Buongiorno. David Greiner è tedesco senza dubbio, ma vive in Italia da quanti anni, David? Da 15 anni. E sei tra l'altro ora in un posto decisamente ameno, dove ti trovi? Io mi trovo a Positano. Quando sei arrivato in Italia, è stata una scelta o è stato così un caso? Qualcuno ti ha inviato dal tuo giornale, visto che eri il corrispondente di Die Welt? No.

fatto l'atto di proprietà, una volta ha fatto la stessa cosa in Italia, è durata mezz'anno con un atto notarile, mi ha costato la bellezza di, non ricordo bene, coinvolgimento di 500-600 euro. Sì, sì, anche di più, è chiaro, marche da bollo e giorni impiegati in fila. E poi comunque alla fine era tutto sbagliato, quindi l'ho dovuto rifare da capo. Buona guida, dunque adesso c'è il car sharing. Davide, rimani con noi perché tra pochissimo torneremo a parlare con i nostri ascoltatori che stanno chiamando all'800 24 0024 di Unioni Civili, quali sono i progetti sul tavolo, le possibili riforme, e naturalmente vorremmo sentire anche la tua esperienza, visto che proprio il premier italiano, proprio il presidente del Consiglio Renzi, ha detto nell'annunciare questa regolamentazione dell'Unione Civili di ispirarsi al modello tedesco. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Dopo le 8 ci ritroviamo per parlare di Unioni Civili. Innanzitutto parleremo anche di come è cambiato il paese, cioè si può riflettere su fenomeni facilmente accessibili a tutti. Per esempio, su questo non ci siamo ancora soffermati. Se pensi al gruppo parentale, genitoriale, 30 anni fa a scuola, ricordate, tutti i bambini erano figli di un papà e di una mamma, e nessuno certo si metteva a interrogarsi se felicemente o meno questi stavano insieme, che li avrebbe accompagnati poi per il resto dell'esistenza. Oggi, quanti dei bambini che iniziano il percorso alla scuola materna, per esempio, con due determinati genitori che vivono sotto lo stesso tetto, avranno lo stesso nucleo familiare, non affettivo, proprio come stato di famiglia, di vita sotto lo stesso tetto in prima liceo? Ve lo siete mai chiesti? E lo sanno bene gli insegnanti, che ormai sono attrezzati per far prendere il bambino a giorni alterni a questo o a quel genitore, per esempio, ma anche l'accettazione del divorzio, della separazione, è un'acquisizione recente, fotografata da questo sondaggio che vi dicevo è stato pubblicato dalla Stampa ieri, che dice chiaramente gli italiani ormai sono molto più tolleranti rispetto a qualche anno fa, cioè sono pochissimi coloro che giudicano non ammissibili comportamenti come la convivenza o l'omosessualità, sono proprio cifre ridottissime coloro che si dicono non solo severi ma addirittura intransigenti. Evidentemente si sono concentrati anche un pochino qua all'ascolto questa mattina, visto il tono di alcuni sms che vi risparmio, sull'orientamento sessuale dei nostri ospiti. David Greiner, ritorniamo dunque a parlare del tuo matrimonio. A questo punto ti devo chiedere questo: qual è la parola tedesca per matrimonio? La parola tedesca è Ehe. E la parola tedesca invece per unione civile, diciamo così? Abbiate coraggio, è eingetragene Lebenspartnerschaft. E quest'ultima accezione regolamenta quello che è stato reso possibile per te e tuo marito, diciamo. Sì, è cambiata molto da quando è stata introdotta. È stata introdotta nel 2011 in una forma abbastanza ridotta e poi grazie a delle sentenze in gran parte della Corte Costituzionale è stato sempre più avvicinato al matrimonio diciamo eterosessuale. E ultimamente l'unica cosa che manca veramente, cioè è stato tutto aggiornato per quanto riguarda la tassazione, la successione, tutte queste domande qua, anche la responsabilità reciproca, l'unica cosa che è ancora stata esclusa è l'adozione di coppia, cioè io potrei adottare un figlio naturale o un figlio già preesistente del mio partner, però non possiamo adottare insieme. Questo quindi sancisce una grande differenza con quello che è il modello, per esempio, nordamericano, negli stati dove è stato recepito, in alcuni stati degli Stati Uniti e in Canada, dove invece più che altro citare la Francia e la Spagna, l'Inghilterra, dove hanno costruito delle formule accessibili a tutti, però anche il matrimonio, che chiamano matrimonio, è accessibile a tutti. quindi hanno più scelta. In Germania una coppia eterosessuale non può accedere alla Eingetragenheitspartnerschaft, loro si devono o sposare o lasciar perdere, dove invece gli omosessuali possono solo accedere alla Eingetragenheitspartnerschaft e non al matrimonio, quindi... La Germania ha fatto un po' una strada sua. Mi aiuta questa tua distinzione a dipanare anche un immenso equivoco sulle unioni civili, e lo faremo nel corso di questa puntata, grazie alla presenza anche di un rappresentante del governo, il sottosegretario al Ministero delle Riforme, Ivan Scalfarotto. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. E abbiamo sentito questa distinzione tra ciò che è possibile per le coppie dello stesso sesso, ciò che è possibile per le coppie omosessuali in Germania, e ha detto Renzi in autunno penseremo, andremo avanti sull'unione civile, andremo avanti con queste riforme e ci ispiriamo al modello tedesco. Allora le chiedo, Scalfarotto, quanto di questo modello verrà recepito e quanto sarà invece lo scarto italiano? Cosa succederà? Di cosa si discute esattamente ora in Italia? Ma il Presidente del Consiglio ha parlato di rappresentazione fedele del modello tedesco. Diciamo così, il modello tedesco, come è stato illustrato molto bene pochi secondi fa, è all'interno, diciamo, dell'Unione Europea, dei paesi soprattutto dell'Europa occidentale e dei paesi del Nord America, ma penso anche poi al Sud America, per esempio all'Argentina. La Germania ha scelto una strada un pochino più prudente, e cioè invece di stabilire che il matrimonio è aperto sia alle coppie eterosessuali che alle coppie omosessuali, si è deciso di avere un istituto per le coppie eterosessuali, cioè il matrimonio, e un istituto per le coppie omosessuali, che è l'unione civile registrata. Questo è, diciamo così, l'indirizzo che sta prendendo anche il governo italiano, nel senso che l'idea, in considerazione, diciamo, delle peculiarità italiane, delle specificità italiane, della cultura, della storia e quant'altro, è, diciamo così, di operare in modo prudenziale e quindi di ispirarci a, tra tutti i modelli, diciamo, che altri paesi hanno assunto, a quello più, diciamo così, prudente, perché anziché fare una scelta, diciamo così, di principio che dice il matrimonio è uguale per tutti i cittadini, per tutte le coppie che vogliano accederci, si dice per il momento alle coppie omosessuali viene riservato un istituto sostanzialmente analogo, appunto tranne per l'adozione di coppia, ma che consente sostanzialmente alla coppia di vedersi riconosciuta come tale, che è una cosa molto importante, di avere dei diritti e dei doveri reciproci, perché ricordiamo che si tratta di diritti e di doveri, di essere riconosciuti anche nei confronti dei terzi, per esempio attraverso la successione, e di poter anche adottare il figlio del partner, e cioè se c'è un figlio naturale nella coppia, il genitore biologico naturalmente è il genitore, l'altro genitore può, appunto non biologico, può adottare il bambino. E per quel che riguarda invece le coppie eterosessuali che decidano di non sposarsi, quindi una situazione che riguarda ormai centinaia di migliaia di famiglie in Italia, come verrà regolamentato questo rapporto? Allora, innanzitutto, tra le due situazioni non va fatta nessuna confusione, perché spesso si confonde la famiglia, diciamo così, di fatto eterosessuale con la coppia omosessuale. Ora, queste due situazioni non hanno nulla a che vedere tra di loro, nel senso che la coppia omosessuale è una coppia che non può sposarsi, cioè che lo voglia o meno non può accedere in questo momento a nessuna regolamentazione giuridica nel nostro paese. Quindi sono due persone che convivono stabilmente in un rapporto di relazione, di amore, di sostegno reciproco, la cui relazione, sebbene siano due cittadini adulti e capaci di intendere e di volere, non ha nessuna efficacia giuridica. Mentre invece la coppia eterosessuale si trova in un'altra situazione, cioè la coppia eterosessuale, tranne casi, quindi tranne che non si tratti di una persona separata e quindi che non può accedere al matrimonio fino a che non arrivi il divorzio, è una coppia che, messa davanti alla decisione se sposarsi o meno, ha deciso di no. Avendo deciso di no, ha deciso di rinunciare evidentemente ai diritti e doveri che derivano dal matrimonio, quindi magari la rinuncia a quei diritti o a quei doveri, è una rinuncia fatta anche in modo consapevole. Cioè lei dice per... nel momento in cui alcuni non trovano nel loro sentire la possibilità di sposarsi e quindi decidono di non farlo, di conseguenza devono assumersene le conseguenze, vale no, a dire... Dico una cosa un po' diversa, dico che se due persone hanno deciso consapevolmente di non sposarsi, non si può obbligare, non li si può obbligare a farlo, e cioè se hanno deciso liberamente di non sposarsi, quelle persone hanno deciso per esempio di non avere diritti di successione, possono averlo deciso deliberatamente. Si immagini una coppia, per esempio, succede spesso, di due persone di mezza età che si mettono insieme, magari hanno dei figli e non vogliono avere effetti successori perché non vogliono confondere i loro patrimoni. Questo non li si può costringere a farlo. Questa coppia avrà bisogno di una cosa diversa dalla coppia omosessuale che non può sposarsi. Questa coppia vorrà, per esempio, quelli che io chiamo diritti minimi di civiltà, per esempio potersi andare a trovare in ospedale, perché oggi le coppie eterosessuali non è sposate, garantito. Magari non ti fanno neanche entrare in sala di rianimazione, il che è veramente un'assurdità. Ora, nel disegno di legge diciamo che c'è in questo momento al Senato, infatti, quello famoso ormai seguito dalla senatrice Cirinnà come relatrice, erano previste infatti due formule. Una formula per le coppie omosessuali che avessero così finalmente un istituto simile al matrimonio a cui accedere. E una formula per gli eterosessuali. No, è un'altra forma no, per gli eterosessuali e gli omosessuali che non volessero accedere al matrimonio o all'unione civile. Cioè qui il problema non va, non bisogna fare una distinzione sull'orientamento sessuale della coppia, bisogna fare una distinzione tra quelle coppie che vogliono stabilizzare il loro rapporto con un legame forte che comporta anche la confusione dei patrimoni, per esempio, e coppie invece... Per esempio il matrimonio, e quindi ci sono così dei postulati, in quanto lei afferma, che danno per naturale quasi la strada del matrimonio, ma non tutti la pensano così, ma torneremo tra pochissimo anche da lei. Prima sentiamo gli ascoltatori, 800 24 00 24, il numero da comporre. Roberto, buongiorno, pronto? Buongiorno, telefono dalla provincia di Lodi e sono un redattore di Pride, una magazine culturale gay. Sì. Esiste dal 99. Sono contento che vi sia Scalfarotto, perché proprio in questi giorni leggevo che Renzi ha rilasciato un'intervista all'Avvenire in cui in pratica si mette quasi, non dico in forse tutta la questione, ma lui dice che, se ho capito bene, che questa legge farà parte di un pacchetto, e se questo pacchetto probabilmente diciamo non sarà approvato, cioè un pacchetto che include anche altre cose, tutto questo viene messo insomma in dubbio. Quindi il suo timore anche... è che insieme a un'eventuale bocciatura, diciamo così, del pacchetto si facciano ancora una volta passi indietro su quelle che sono le unioni civili, ho capito bene Roberto? Esatto, fra l'altro in questi giorni proprio su Twitter leggo appunto post di Anna Paola Concia piuttosto che di Aurelio Mancuso e altri che dicono giustamente siamo stufi perché qui sono solo promesse, ma poi a settembre andrà tutto, come si suol dire, in vacca, cioè ci crediamo poco, ormai la comunità GLBT è abbastanza... E questa è la sua domanda, è la sua domanda Scalfarotto. Credo che questi temi non siano patrimonio semplicemente della comunità omosessuale, gay, lesbico, transgender, ma è il diritto civile, è il diritto di confermare e sancire alcune delle scelte che si fanno privatamente nella vita, sia un diritto esteso a tutta la comunità italiana, nel senso che la società civile, una volta che ha deciso di il diritto di autodeterminazione, non essendo una società particolarmente religiosa ma una società secolarizzata, ovviamente si deve occupare anche di queste tematiche. Spesso però la società civile è più avanti, e ne parleremo tra pochissimo citandovi il caso di un grande gruppo bancario, è più avanti di chi le leggi le dovrebbe fare. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. È difficile fare ordine in quelli che sono i modelli adottati all'estero per quel che riguarda unioni civili, di questo stiamo parlando questa mattina. Ancora buongiorno da Irene Zerbini. Come sono regolate le unioni civili, cioè le forme di convivenza tra due soggetti etero o omosessuali non legati dal vincolo del matrimonio? L'ordinamento quali diritti, quali doveri reciproci riconosce ai membri della coppia e cosa si può fare in Italia? Saluto Arrigo Roveda, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno, lei Roveda, il presidente del Consiglio Notarile di Milano, e forse qualche novità in questo tema, a prescindere da quanto verrà deciso poi a settembre, insomma, o in autunno, come è stato detto in maniera più generica, può già segnalarcela? Le vere novità ce le aspettiamo dal legislatore. Quello che io posso segnalare è che già oggi persone unite da un rapporto di stabile convivenza possono regolare alcuni aspetti della loro convivenza, che sono gli aspetti patrimoniali, cioè non il reciproco obbligo alla fedeltà, alla coabitazione o alla procreazione, cioè ciò che discende dal matrimonio, ma i rapporti di natura patrimoniale, quindi la casa, la futura successione, il concorso al mantenimento dei bisogni familiari. Tutti questi aspetti fin da oggi possono trovare una regolamentazione contrattuale di natura patrimoniale. I contratti di convivenza si possono stipulare dal 2 dicembre del 2013, dunque dalla fine dell'anno scorso, in tutti gli studi notarili. Ma cosa sono esattamente? Degli accordi scritti con cui si definiscono regole dell'assetto patrimoniale in un'unione di fatto? Cioè, in cosa consistono esattamente? Hanno un contenuto molto ampio, tant'è che possono essere stipulati in realtà in qualsiasi forma, anche in una forma non notarile, quando non riguardano i beni immobili, per esempio. Possono regolare tutta quella gamma di rapporti che hanno come oggetto il patrimonio dei conviventi e la ricchezza prodotta durante la convivenza. Che fine farà, come sarà distribuita, cosa succederà se questo rapporto di convivenza cessa, chi manterrà i figli, chi terrà la casa, e poi anche come sarà regolata la successione, fino ad arrivare a designare la persona che in caso di futura incapacità dovrà prendersi cura dell'amministrazione del patrimonio dell'incapace e dei rapporti con i medici. E come definirebbe lei la differenza tra questo modello e il modello matrimoniale? La differenza è sostanziale. Il modello matrimoniale è un modello rigido che il legislatore mette a disposizione oggi delle coppie di sesso diverso, che ha anche una serie di obblighi di natura morale, come quelli che dicevo prima, appunto la convivenza, la procreazione, mentre il modello contrattuale è un modello a disposizione di chiunque abbia dei rapporti stabili di convivenza, a prescindere dal sesso e a prescindere anche al limite dal legame affettivo. Quanti italiani vi sono ricorsi fino a questo punto, visto che questa possibilità c'è da gennaio ad oggi? Lei cosa ha constatato nella sua posizione di presidente del Consiglio Notarile di Milano? Prima di tutto ho constatato che da tempo c'era l'esigenza di regolamentare questi rapporti, ed è un'esigenza che cresce sempre di più, come stanno crescendo le convivenze di fatto, dall'altra parte assistiamo ad una diminuzione dei vincoli matrimoniali tradizionali. È uno strumento che non viene ancora utilizzato appieno, devo dire in certi casi è anche un errore, perché non pensare in anticipo a cosa può succedere può lasciare il soggetto debole della coppia privo di protezione. Senza dubbio il suo è un invito molto, come dire, pragmatico, ma che potrebbe essere anche un segno d'attenzione, di cura verso l'altro membro della coppia, ma che si sa, soprattutto nei soggetti giovani, non deve essere facilissimo pensare a questo tipo di modalità. I dati Istat parlano chiari, comunque c'è una progressiva diffusione della famiglia di fatto in Italia. Pensate che nel 2007 erano circa 500.000 le convivenze moroxorio, oggi abbiamo superato il milione, anche se è difficile fare un vero e proprio censimento all'unità, preciso fino all'ultima unità, su questo tipo di situazioni. Intanto sentiamo gli ascoltatori. Pronto, Egle, se ho pronunciato bene il nome, dico bene? Sì, perfetto. Buongiorno. Buongiorno, complimenti per la sua preparazione, signora. Volevo dire questo, io sono una signora di 65 anni e fino a poco tempo fa ero ben d'accordo con tutto ciò che riguardo le convivenze era ritenuto moderno. da un po' di tempo e mi sono posta delle domande. Dico, ma in realtà noi non facciamo altro che condannare il lavoro in nero, ma la convivenza sotto sotto non è anche essa un lavoro in nero? E non posso In che senso, ci spieghi? Nero perché non ci sono tanti, non ci sono dei diritti, perché praticamente da un momento all'altro tutto può andare in aria con un buongiorno, ci siamo voluti bene, auguri per il futuro. E questo non fa altro che aumentare il senso di precarietà che ormai è diventata padrona della nostra vita. Tutto è precario, ora anche i genitori stessi sono precari. Non abbiamo più, un ciodino al quale aggrapparci. Egle, grazie, è bellissima questa sua riflessione. Innanzitutto perché parte da un modo di porsi nella vita molto bello. Fino a poco tempo fa pensavo in questo modo e poi mi sono posta delle domande e credo che sia l'unico modo per affrontare questioni e situazioni di questo tipo. Coinvolgo a questo punto un avvocato, Carlo Rimini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Carlo Rimini, che è un professore di diritto privato nel Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell'Università degli Studi di Milano, è anche professore di diritto di famiglia a Pavia e può innanzitutto così indicarci un modello da seguire, trovandosi l'Italia a un bivio, almeno dal punto di vista legislativo, perché ci sembra che la società civile le sue scelte le abbia già fatte. A chi ispirarsi, secondo lei, per evitare errori e soprattutto sofferenze, perché poi dietro queste discussioni normative ci sono le esistenze, le realtà di milioni, l'abbiamo sentito, di persone e anche minorenni. Certo, ma innanzitutto l'Italia effettivamente arriva per ultima e quindi può scegliere in una serie ormai quasi infinita di modelli europei e mondiali di paesi che sono arrivati prima di noi a studiare e a affrontare legislativamente il problema. Quindi effettivamente noi abbiamo davanti un'infinità di modelli. Credo che per l'Italia in questo momento, come diceva prima Scalfarotto, io ho sentito delle idee molto chiare da parte di Scalfarotto e ne sono molto contento, perché finalmente ci sono delle idee chiare alla base di scelte che devono essere fatte. Credo che il modello tedesco sia il più adatto alla situazione italiana. Perché? Purché sia veramente il modello tedesco. Perché? Il modello tedesco si può riassumere in due parole: creiamo una legge sulle unioni civili riservata agli omosessuali, perché gli eterosessuali hanno a disposizione il modello del matrimonio, un modello alternativo quasi in tutto identico al matrimonio, e quindi che diverso il matrimonio ha il nome, e questo per questioni di, come dire, rispetto nei confronti di una parte molto significativa della cultura, della civiltà italiana, che considera il matrimonio un sacramento e riservato tradizionalmente alle persone di sesso diverso. Quindi evitiamo di attribuire al nuovo istituto la parola, il nome, il titolo matrimonio, perché questo potrebbe urtare delle sensibilità. Detto questo, creiamo un nuovo istituto con un nome diverso che produce sostanzialmente gli stessi effetti. Discostiamoci dal modello matrimoniale solo laddove sia strettamente necessario, perché ogni scostamento ulteriore rispetto a ciò che è strettamente necessario porterebbe ad una illegittimità dal punto di vista del principio di uguaglianza tra la disciplina predisposta per le coppie eterosessuali, cioè il matrimonio, e la disciplina predisposta per gli omosessuali. Dove quindi lei applaude essere a questa scelta? Il modello tedesco, secondo lei, è quello che meglio si adegua allo stato attuale della società italiana, non urtare certe sensibilità, dice lei, e dare la precedenza a queste considerazioni. Scalfarotto, dunque, quali sono i tempi previsti per questa discussione, se discussione ci sarà? Anche Roberto, che ha chiamato prima, dicendogli che non è che il pacchetto che Renzi ha annunciato è che ci sarà una sola legge contenente di tutto e di più, saranno una serie di provvedimenti legislativi, ciascuno autonomo dagli altri, e che saranno presentati in settembre. La legge sulle unioni civili sarà un disegno di legge del governo che appunto sarà autonomo dagli altri. Ottimo, grazie per la precisazione, ringrazio tutti voi, un esempio della società che cambia. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Ed è un aspetto molto rilevante dell'attualità, la famiglia allargata, per esempio. Sempre di più ci si chiede come gestire i figli del partner, quali gli errori da evitare. Ma questo è solo uno dei temi che fotografa ciò che è cambiato nel sentire comune della società. È difficile intrappolare un cambiamento in numeri, ma basta osservare ciò che ci sta intorno e si vedrà inevitabilmente che quello che una volta era tabù, ma per una volta non stiamo parlando di secoli, ma semplicemente una manciata d'anni fa, oggi è, non solo è accettata o accettabile, ma addirittura è il comportamento predominante. Si pensi alla convivenza legata di fatto alla tematica delle famiglie allargate di cui dicevamo all'inizio, perché spesso quando si inizia una relazione di convivenza, a volte la persona con la quale la si inizia ha già figli da storie precedenti, dunque tutti si è chiamati in qualche modo ad affrontare nuove sfide, nuovi legami, non sempre semplice, ma crescere dei figli che, nonostante all'inizio forse possa sembrare faticoso, rimangano sereni, non è utopia, anzi, invece tempo fa anche e semplicemente nominare la possibilità di una separazione o di un divorzio faceva venire le lacrime agli occhi a coloro che ascoltavano la storia. Ci scrivono al 349-238-6666: la famiglia si sfascia e voi godete. Assolutamente non godiamo, diciamo semplicemente che è inutile nascondersi dietro un dito. Se la realtà è questa, si faccia in modo che tutti gli intervenuti, soprattutto quelli che non hanno chiesto di intervenire come i figli, lo vivano nella maniera più serena e più tranquilla possibile. Come cambia la società? Siamo diventati più bacchettoni? Siamo più tolleranti? Abbiamo più o meno tabù? Come ci stiamo muovendo? Questa è la domanda che ci poniamo all'inizio di questa mattinata. E allora, leggiamoli un po' di seguito, questi SMS. Vogliamo smettere con i diritti del coniuge. I diritti devono essere solo verso il figlio, ci scrive Alessandro. Ricordatevi che in natura esiste soltanto l'uomo e la donna, un SMS non firmato che si rifà alla discussione che abbiamo avuto poco fa sulle unioni civili. E poi c'è chi ci ricorda il tema molto importante delle pensioni e della reversibilità nel caso di unioni civili o nel caso di coppie di fatto. Perché vogliamo vincoli rigidi come il matrimonio anche per le coppie gay, quando già gli eterosessuali hanno sperimentato sulle proprie spalle la fatica e a volte il tasso di fallimento del matrimonio? Un'altra domanda legittima che arriva al 349-238-6666. Continuate a intervenire, sono numerosi i temi, parleremo anche di religione, per esempio, un'altra cosa che è cambiata. Era assolutamente un tabù non partecipare all'ora di religione. Le tendenze in diverse parti d'Italia sono molto variegate invece oggi. Ne parleremo con voi, insegnanti. Se volete intervenire, potete telefonare all'800 24 00 24. Benvenuto al professor Alberto Piccioni, intanto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per il suo tempo. Professore, lei cosa insegna? Io insegno religione cattolica dal 2000, quindi sono 14 anni che insegno in Trentino Alto Adige. È un sacerdote? No, non sono sacerdote. Lei è laico, laureato in teologia, immagino? Sì, ho una laurea in teologia, anche in filosofia, sì. E quindi un interesse vasto verso questo tema. Cosa ha notato al liceo scientifico, lei insegna, quindi devo dire, nelle scuole superiori? Qual è la tendenza e il tasso di adesione dei ragazzi al suo insegnamento? Allora, si parte dalle prime classi, dove i ragazzi arrivano che hanno 14 anni, che in media c'è una partecipazione dell'85%. Poi crescendo, diciamo che alcuni si perdono per strada, ma la tendenza in Trentino, diciamo, ancora è buona, nel senso che si arriva a un massimo, a un minimo di un 60% nelle quinte. Ecco. Negli anni passati, diciamo che le cose erano peggiori dal nostro punto di vista. Adesso stanno migliorando anche perché sta cambiando la percezione dell'insegnamento di religione un po' anche tra le popolazioni, tra le famiglie. In che senso sta cambiando? Ma sta cambiando nel senso che i programmi, ciò che si fa durante l'ora di religione non è catechesi, e quindi le famiglie capiscono che partecipare all'ora di religione significa un momento di crescita culturale, personale per i loro figli. E questo avviene anche in famiglie laiche, anche in famiglie con genitori atei, per cui abbiamo in classe ragazzi che decidono loro di venire a partecipare, di venire durante l'ora di religione. E non vengono ostacolati dai genitori che rispettano questa scelta? Normalmente no. Abbiamo anche ragazzi musulmani, abbiamo ragazzi di altre religioni, proprio perché credo che l'insegnamento della religione abbia subito una mutazione genetica negli ultimi 10 anni. C'è un po' molta più professionalità. Ed è un po' l'occasione, lei dice, per confrontarsi anche con altre realtà religiose o etniche. E quello che ci segnalano infatti anche gli ascoltatori via SMS, e soprattutto noi atteniamoci ai numeri. C'è un aumento dei professori di religione rispetto al 2008, erano 19.912, lei è uno di questi? Sì. Oggi lei ha 23.778 colleghi. Quindi sì, ne ha circa 3-4 mila in più, anche se si registra contestualmente un decremento di coloro che si avvalgono dell'insegnamento previsto dal concordato Stato-Chiesa nel 29, se vogliamo fare un riferimento storico, ribadito in un nuovo concordato nel 1985. Sono ragazzi non necessariamente religiosi o che provengono da famiglie di credenti, ma ragazzi, a volte possiamo definirli, professore, secondo lei, adesso non so, mi dica se rientra, curiosi? Ma curiosi, sì, inizialmente può essere anche una questione di curiosità, dopodiché si tratta anche di mettersi in gioco durante l'ora di religione, perché tu esprimi quel che sei, a volte esprimi anche le tue posizioni, quindi ti metti in gioco. E se è solo curiosità, sì, può essere interessante, ma può essere un inizio, ecco. Ti metti in gioco in che senso? Ti metti in gioco nel senso che spesso si trattano questioni non solo etiche, ma anche profondamente spirituali, quindi le tue posizioni emergono, vengono fuori, se io ti parlo di scelte, ti parlo di valori, ti parlo di vita, ecco, io direi che si parla di vita, quindi non di una cosa estranea al ragazzo come può essere qualsiasi altra materia, una matematica, una fisica, no? In cui tu sei coinvolto, se hai una passione. Nella religione ci sei anche un po' tu. Un insegnamento di estrema attualità, secondo alcuni che ci segnalano la loro mancanza di fede, ma la loro contentezza perché il figlio invece ha deciso di seguire in piena libertà questo insegnamento all'interno della scuola cattolica, della scuola non cattolica in questo caso, della scuola pubblica, e ne è tornato più ricco, cioè viene a casa e affronta dei dibattiti, ci dice questa famiglia, al 349-238-6666. E ancora una volta 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Perché stiamo parlando dell'ora di religione? Perché uno di quei fenomeni che segnala un cambiamento, alcuni dei tabù che sono caduti nel corso di questi anni, quando io andavo al liceo era assolutamente impensabile, erano proprio dei numeri sotto il 10 in tutto un istituto di 1300 persone a chiedere l'esonero dall'ora di religione. Invece oggi sono sempre di più coloro che scelgono di non frequentarla e coloro che, e questo è un dato ancora più interessante, scelgono di tornare a frequentarla, cioè di entrare in classe quando entra l'insegnante di religione, perché non è più, come ci ha detto il nostro professore, un insegnamento percepito come a senso unico, ma è l'occasione, questo piace molto ai ragazzi e ai giovani soprattutto, di un dibattito. Pronto, buongiorno, Lina. Pronto? Buongiorno. Lina, da dove chiama? Chiamo da Padova. Volevo dire in pochissimi secondi, raccontare brevemente la mia esperienza di divorziata con due figli nei primi anni 70, quindi parliamo nei primi anni 70, quindi sì, lei ci può, sì, ci può indicare il cambiamento rispetto a come veniva vissuto allora il divorzio e come viene vissuto oggi. Certo, oggi è una cosa abbastanza normale, ma allora è stata molto dura e per me e anche per i miei figli, perché mio figlio a volte veniva a casa molto scosso, perché gli veniva addirittura chiesto da parte di alcuni genitori o addirittura professori se avesse abbastanza di che vestirsi o addirittura cibo. Cioè anche chi aveva un atteggiamento benevolo e non giudicante si poneva comunque verso di voi come se aveste bisogno. Sì. Bisogno, esattamente. Oppure mia figlia, lo stesso che ancora al liceo, veniva esclusa da certi inviti da parte di compagni, ma non dipendeva probabilmente dalle compagne, ma dai genitori, perché era ritenuto disdicevole a quel tempo essere invitati e figlie di divorziati, quindi era molto difficile. E lei, per quel che riguarda invece la sua situazione, ci ha segnalato i disagi dei figli, ha subito problemi, discriminazioni? Ho avuto problemi, sì, personalmente molti problemi, sì, perché vivevo poi in una cittadina del Veneto, quindi con una mentalità molto conservatrice che conserva tuttora, e quindi è stato molto difficile perché il divorzio era considerato un tabù. E per quanto riguarda la mia esperienza è stato lo stesso traumatizzante, perché ho dovuto cercarmi un lavoro, ma non solo, ho dovuto lasciarlo ben quattro volte, perché venivo letteralmente assalita dai datori di lavoro, perché ero considerata divorziata uguale terra di conquista, di facile conquista ovviamente. Ah, divorziata è dunque disponibile, era disponibile. Un po' questa è l'equazione. Questo mi ha molto molto segnata, ci ho messo parecchi anni poi a... Senta Lina, meglio. Immagino non sia facile parlare di queste cose anche in una radio nazionale. Perché no. Perché ha scelto di telefonare? Perché ho scelto? Di telefonarci. Ho scelto di telefonare proprio per far presente che in tantissimi anni, così dall'inizio dell'approvazione della legge, molte cose sono cambiate. E comunque non sono più esperienze così traumatizzanti, anche perché ormai adesso c'è la possibilità di ricorrere allo stalking, alla denuncia per stalking. I figli non sono più così traumatizzati, anche se l'esperienza del divorzio è sempre traumatizzante per i figli. È chiaro. Lei ha fatto bene a sottolinearlo, perché sembra quasi, quando cerchiamo di fotografare tendenze della società, e anche questo era un po' il proponimento di questa trasmissione, anche lo scarto che c'è tra ciò che la società civile fa e il ritardo con cui arriva a legiferare invece il Parlamento, il governo, se parliamo di decreti. E non dimentichiamo, sì, perché ancora così al giorno d'oggi, comunque ancora così è molto difficile, anche se c'è questa possibilità di denuncia per stalking, però vediamo tutti i giorni quanto è difficile, si legge sui giornali quanto è ancora difficile. Oggi esistono degli strumenti legislativi, ma ciò non toglie nulla al dolore naturalmente di coloro che sono coinvolti in queste vicende. No. Lina, lei è straordinariamente coraggiosa, perché ha deciso di segnalarci una situazione che ha comportato, ha richiesto il coraggio già anni fa quando lei l'ha vissuta, ma poi per farci capire come le cose siano anche cambiate. Grazie a Lina. Giorgio, grazie. Buongiorno. Un uomo? Io invece ho avuto un'esperienza totalmente diversa, nel senso che dopo un matrimonio andato male a Genova, dove vivevo, ho conosciuto una persona a Vicenza, e dopo due anni di frequentazione tutti i weekend avanti e indietro, ho deciso di provare questa vita insieme. Lei però aveva due figli, uno di 9 e uno di 13, una di 13, una ragazza, e niente, abbiamo provato, inizialmente specialmente la ragazza me la sono trovata diciamo un po' contro, e dopodiché dopo qualche anno invece si è attaccata in una maniera incredibile a me, anche il ragazzo, l'ho portata all'altare. Sono 20 anni che siamo insieme, loro mi considerano come se fossi il papà, e ho un figlio invece mio proprio del primo matrimonio, si considerano tre fratelli, quindi insomma è stata un'esperienza difficile, perché comunque lì... Ma ricca. Ecco, ricca, perché bisogna saper chiedere scusa anche come genitore, quindi tante volte che ci sono state delle discussioni, pianti, specialmente della ragazza, perché la ragazza insomma era un po' più difficile perché era grande, quindi il ragazzo invece è stato molto più facile anche caratterialmente, però diciamo che la cosa è stata molto bella da parte di tutti, bisogna chiedere scusa, ecco, nella vita. Questo è il consiglio che dà a tutti coloro che si trovano in una situazione di questo genere. È molto delicato come consiglio, però probabilmente cruciale per il buon raggiungimento di questo. Perché tante volte si pensa magari sempre di aver ragione e poi dopo, facendo un ragionamento, si dice, beh, insomma, ma anche questi ragazzi che devono accettare comunque anche così le sgridate di uno che non è davvero il papà, eccetera, io posso capire che sia tante volte difficile, no? Quindi quando c'erano delle crisi, delle litighe, eccetera, dei pianti, magari la ragazza andava su in camera sbattendo la porta, dopo 10 minuti andavo su, bussavo alla porta, le chiedevo scusa, poi si parlava, ci si spiegava e quindi insomma poi alla fine... Cioè lei faceva quello che avrebbe fatto con un suo figlio, naturale, figlio. Diciamo, sì, perché sono figli anche questi, con io un figlio naturale. L'altro giorno al figlio ho scritto in Germania dicendogli t'ho sempre considerato come se fosse mio figlio e t'ho sempre trattato come se fossi mio figlio naturale, insomma, ecco, quindi anche nelle sgridate. È chiaramente anche in quello che si può notare l'omogeneità di trattamento. Grazie, Giorgio, ci ha segnalato tra l'altro una cosa a cui i ragazzi, bambini o meno, sono molto sensibili, cioè l'eventuale diversità di trattamento da parte di uno dei due membri della coppia, del nuovo compagno della mamma o della nuova compagna del papà, o insomma il trattamento diversificato per i figli avuti dal precedente matrimonio o per i figli acquisiti, un elemento a cui i ragazzi sono molto attenti, un equilibrio difficile da raggiungere. Proprio su questi problemi molte coppie si rompono, ma al di là delle problematiche individuali è bello segnalare, l'avete sentito già da queste due esperienze, quanto sia cambiata la società rispetto a 20-30 anni fa. Come ci raccontava la signora Lina, tutti si mettevano la mano al cuore anche a scuola, quando i ragazzini dicevano di essere figli di separati o divorziati, subito il primo aggettivo che veniva alla bocca era poverini. Gianetta Roegassani, buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno a voi. Un altro avvocato, lui è il presidente dei matrimonialisti italiani e l'abbiamo disturbata oggi per capire se quanto segnalato da questo sondaggio dice, questo sondaggio, che gli italiani sono molto più tolleranti e che tantissimi di quelli che una volta erano tabù ormai sono comportamenti acquisiti e accettati. Lo nota anche lei dal suo osservatorio? Assolutamente sì. Io come avvocato ho un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, perché vedo le coppie che scoppiano in tribunale e mi accorgo che tante cose sono cambiate rispetto al passato, già rispetto a quando ho iniziato a fare questa bellissima professione. Per cui negli ultimi 25 anni sono cambiati i costumi, sono triplicate le separazioni e sono triplicati i divorzi. La gente e voi godete? Scusi se glielo chiedo, ma è una domanda che ci fanno gli ascoltatori e gliela giro. Voi avvocati, è vero che voi godete, siete ben contenti anche di alimentare quelli che possono essere i contrasti, così le vostre parcelle salgono, la vostra professione è più richiesta? Ma io per la verità mi rendo conto che sarebbe assolutamente ipocrita pensare che un avvocato divorzista voglio dire cerchi di salvare a tutti i costi i matrimoni dell'umanità. Insomma, è come il dentista che spera che tutta la gente stia bene con i denti, non abbia una carie. Insomma, è evidente che la crisi della famiglia, evidentemente, non solo per gli avvocati, ma per gli psicoterapeuti, per i mediatori familiari, per i sessuologi, per almeno altre 56-57 professioni, è stata una manna tutto questo. Però attenzione, gli avvocati di un certo livello non è che hanno interesse ad alimentare il conflitto, perché il conflitto costa a tutti, è uno stress infinito, è pericolosissimo. Un avvocato normale non vuole assolutamente arrivare ai ferri corti, perché questo potrebbe portare poi anche a una disgrazia. Le separazioni e i divorzi, noi lo sappiamo, lo leggiamo sui giornali, possono sfociare anche in tragedie, quindi attenzione, a chi alimenta il fuoco non è un avvocato, probabilmente qualcuno iscritto all'albo degli avvocati, ma non è un avvocato. Grazie per la sua franchezza, cioè lei non si nasconde dietro un dito, chiaro che la sua categoria in qualche modo vive e ha vissuto di questo, ma un avvocato di un certo livello non ha certo bisogno di prolungare la causa. E pensi, avvocato, che nel 2012 un bambino su 4, anzi secondo i dati del 2013 addirittura il 28%, cioè un po' di più del 25%, è nato all'interno di una coppia non sposata. Ora le chiedo la sua considerazione su questo. Da un certo punto di vista è chiaro, normativo, legale, lei potrebbe dirci molto, ma quando osserva le coppie e l'affidamento dei figli in caso di separazione, di divorzi, vede anche storie che, nonostante la separazione, nonostante l'inevitabile dolore, vanno a finire bene? Cioè i figli possono rimanere sereni? Beh, il dato che lei ha indicato sui 110.000 bambini che nascono fuori dal matrimonio è un dato significativo. Significa che gli italiani non vedono più nel matrimonio l'unica soluzione per mettere su famiglia. E non ci sono soltanto i conviventi forza, ma ci sono anche i conviventi per scelta. C'è un'altra forma di famiglia, soprattutto nel centro-nord, la gente si sta un po' allontanando dall'istituto del matrimonio. Detto questo, quando ci si lascia, c'è modo e modo di lasciarsi. Si può essere dei buoni ex o dei pessimi ex. Ovviamente quando ci sono bambini molto piccoli, litigare da delinquenti, perché a volte veramente si arriva a livelli insostenibili dove devono intervenire i servizi sociali, la polizia, i carabinieri, i magistrati, a volte addirittura gli ospedali, cioè bisogna stare molto attenti. Io ritengo che quando i bambini sono molto piccoli, ma anche quando sono in fase adolescenziale, la ferocia di certi litigi può portare a delle conseguenze veramente terribili. Quindi la mediazione familiare, gli avvocati, ecco, che non devono assolutamente buttare benzina sul fuoco, è anche una cultura sociale diversa, perché in Inghilterra, negli Stati Uniti si riesce ad arrivare ad un accordo, magari facendo anche la festicciola con tutti gli amici, dicendo siamo per divorziare o abbiamo divorziato, non rinneghiamo un capitolo importante della nostra vita, ma non ci uccidiamo. Nel nostro paese pare che ogni separazione e ogni divorzio debba essere sempre poi accompagnata da situazioni difficili. Certo, il 68-70% delle separazioni sono consensuali, ma attenzione, sono numeri falsi. Cioè molte volte si fa la separazione consensuale perché non si hanno i soldi per pagare l'avvocato, però poi di consensuale c'è molto poco, succede che poi e quindi continuano le tensioni, i litigi non finiscono mai, ci sono persone che litigano per tutta la vita, e allora, soprattutto anche il parlar male, questo è un altro aspetto che forse non si configura come litigio dell'ex di fronte ai figli, è una cosa che danneggia molto la stabilità psicologica di bambini molto piccoli. Non so. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. 31 minuti dopo le 9, ancora una manciata di minuti per discutere di questa dimensione della morale civile, definiamola così, l'appartenenza a determinate situazioni, scelte o subite, oggi non è più discriminante come lo era una volta, lo registrano i sondaggi, ma soprattutto le cifre sui cambiamenti degli italiani. Nel 2012 abbiamo detto un bambino su quattro è nato all'interno di una coppia non sposata, un numero che è aumentato ulteriormente nel 2013. Questo non significa automaticamente che quel bambino sarà o quella bambina sarà un figlio unico. Spesso ha figli che le coppie si ritrovano da precedenti unioni, da precedenti matrimoni, ed è possibile maturare anche un rapporto molto sereno all'interno dello stesso nucleo che si è riformato da amori smarriti, come dice il titolo di un bellissimo libro. Quali sono le vostre esperienze e soprattutto in che direzione si dovrebbe andare? Concordate con il sondaggio della Stampa? Gli italiani di oggi sono più tolleranti o amano dipingersi come tali, ma in realtà rimangono molto bacchettoni? Biagio, buongiorno. Pronto? Gli italiani... Buongiorno. Buongiorno, sì, la sentiamo benissimo. Gli italiani sono tolleranti, lo Stato no. Volevo solo dire che per chi come me si è ricostruito una vita dopo una separazione, un divorzio, e una famiglia di fatto, cioè la mia compagna, due figli, non ha nessun diritto, ma solo doveri. Mi spiego. Nello stato di famiglia, nel certificato di residenza, io ho una famiglia di fatto. Ma se la mia compagna è in ospedale può essere limitato l'accesso, se la mia compagna muore io non ho nessun diritto, però uno dei miei figliocci quest'anno si è iscritto all'università e il reddito, il mio, ha fatto cumulo e noi abbiamo speso 1200 euro in più. Lo Stato quindi riconosce la famiglia di fatto? In questo caso sì, è molto interessante queste diverse situazioni che lei ci ha sintetizzato in questo intervento. Grazie a Biagio. Avvocato Gassani, ha sentito? Sì, ho sentito. In alcuni casi doveri, in alcuni casi diritti, non c'è un comportamento omogeneo. Insomma, questo è un genitore a tutti gli effetti o non lo è? Ma gli italiani sono tolleranti, gli italiani sono molto più civili delle leggi che li regolano. E sono d'accordo con il radioascoltatore, questo è un paese stranissimo, probabilmente in un binario morto in Europa rispetto alla tutela dei diritti fondamentali delle persone. Basti pensare per esempio che un convivente può andare a trovare in carcere l'altro convivente, ma non in clinica, non in ospedale. Cioè, questa è una è cosa tutta macchia di leopardo così. Sì, sì, ed è la giurisprudenza, io devo dire che la Corte Suprema di Cassazione, molte volte anche la Corte Costituzionale, sta in qualche modo cercando disperatamente di introdurre principi nuovi, perché il legislatore è fermo, oggi chi convive è ancora visto come un appestato, è ancora visto come qualcuno che vive una relazione assolutamente posticcia, quando invece poi statisticamente le coppie di fatto paradossalmente durano di più di quelle sposate, quindi il pezzo di carta, perché se non c'è amore resta un pezzo di carta il matrimonio, non porta da nessuna parte, non è il collante di un rapporto, ormai le statistiche lo dicono, è inutile stare lì a parlare del matrimonio come un sinonimo di stabilità, è tutto falso. È l'amore l'unico concetto vero che può creare stabilità. E quindi, voglio dire, una donna. Però ci ha detto il sottosegretario al Ministero delle Riforme, ospite poco fa in questa trasmissione, Ivan Scalfarotto, sì. Ci ha detto: ora noi regolamenteremo le unioni civili tra le coppie dello stesso sesso. Per quel che riguarda le coppie che abbiano invece le coppie eterosessuali, insomma, diciamo così, le unioni di fatto, hanno sempre la scelta di sposarsi. Se non si sposano. Io per fortuna mia non faccio politica, perché voglio dire che avrei reagito in maniera molto energica davanti a questa frase. Come avvocato sono un uomo libero e devo dire che se questa è la politica che deve regolare il diritto di famiglia siamo freschi, perché io ho fatto un viaggetto in Francia ma anche in Spagna parlando con dei colleghi, ho capito perfettamente come funziona in paesi dell'Unione Europea, quindi questa è l'Italia, questo è il nostro modo di affrontare problemi che riguardano milioni di cittadini. A questo, per fortuna, ripeto, non faccio politica ma me ne vedo bene di farla, spero però che dal mio osservatorio dell'associazione avvocati matrimonialisti di combattere questi retaggi. Ci deve essere il diritto per tutti di esistere, di vivere, di avere una dignità. Non bisogna più fare più buoni e cattivi, serie A e serie B. Certo, nessuno vuole creare un doppione del matrimonio, ma che una donna per 30 anni debba fare, a volte anche da serva ad un uomo, e poi viene messa alla porta e non ha il diritto neanche a un sussidio, a poter sopravvivere, questa è una vergogna nazionale, è inutile stare a negare questo dato di fatto. Io di queste situazioni ne vedo tutti i giorni, vedo persone, anche uomini, che sono stati messi alla porta dopo aver dato tutto all'altra persona e non si ha il diritto a un pezzo di pane. E che stato di diritto è? Che socialità c'è in questo paese? Ecco perché poi eventualmente i politici che abbiamo sono i politici che ci meritiamo, perché se anche l'estrema destra inglese o francese non ragiona così. Non mette in dubbio questi principi. Noi siamo completamente a parte nell'Occidente, questo è poco ma sicuro. Sì, anche l'estrema destra, è vero, non mette in dubbio questi principi, sono dei diritti acquisiti. Che è molto più conservatrice dell'estrema destra francese. Questa è la verità. E ripeto, non ho mai avuto una tessera di partito e me ne vanto. Questo è il discorso. E ci scrive qualcuno parlando di figli avuti dall'attuale moglie, da una precedente convivenza, e del legame che questi figli hanno ancora col padre, e ci segnala quest'uomo: nonostante il padre se ne disinteressi completamente, per me è dura vedere quanto io non potrò mai sostituire questa figura paterna nel loro cuore. Ma forse questa non è la strada da seguire, ci potrebbe dire anche l'avvocato. Sentiamo Enrico da Venezia, pronto, buongiorno. Buongiorno, io mi riferivo invece al discorso dell'insegnamento della religione. Innanzitutto risponda alla domanda che abbiamo sottoposto oggi: secondo lei l'italiano è meno bacchettone rispetto a una volta o ama dipingersi come tale, però l'anima conservatrice e un pochino oscurantista è rimasta? Ma, è una questione di generazioni, man mano che vengono le generazioni nuove chiaramente le cose piano piano cambiano, anche perché poi ci si deve adattare all'andamento generale. Magari qualcuno nel cuore lo è ancora bacchettone, però magari si vergogna di dirlo, poi nei fatti si vedono le cose. Molto sottile, dica... molto interessante. Ci dica quello che voleva segnalarci sull'ora di religione. Grazie, sì. Volevo dire, mi riferivo all'intervento precedente, e volevo dire che in un paese come il nostro, che è sempre più multietnico, ma non solo multietnico, ci sono persone che sono nate in Italia da genitori italiani e non sono cattolici, giustamente, ci sono tante religioni, e considero necessario non lasciare l'iniziativa individuale o locale di fare quello che hanno fatto lì in Trentino. Dovrebbe essere proprio nel programma ministeriale, già dalle elementari, l'ora di religione deve diventare ora di storia delle religioni. E facciamola finita con questa prepotenza cattolica che continua a imporre alla fine un catechismo. Poi chi lo fa singolarmente è da lodare, ma... Sì, c'è da dire questo, Enrico, infatti, che nonostante la dicitura sia rimasta religione cattolica, la scelta poi di fatto di molti insegnanti dietro la cattedra è quella del pluralismo, cioè trasformare l'ora di religione in un momento in cui si viene a conoscenza di diverse religioni. E lei però dice non deve essere lasciato alla scelta individuale, deve essere regolamentate. Sergio, buongiorno, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno Sergio. Allora, io ho sentito prima l'avvocato che affermava che gli avvocati non cercano la lite sempre, ma quelli non sono avvocati. Io, la mia esperienza, sono 13 anni fa ho subito una separazione consensuale, dico tra virgolette subito. Sì, sì, abbiamo capito, era una scelta provocatoria. Ha subito una... Dopodiché la mia ex ha cambiato 3 avvocati che non hanno voluto mai tentare una mediazione, hanno sempre fatto causa, e l'ultimo addirittura, che è nominato di recente, ha detto che mi dichiarerà guerra fino alla morte. Farà scusi se sorrido, so che è drammatico, però cioè, l'infantilismo di questa affermazione è così, strappa il sorriso. Ma lei ha figli, Sergio, con la sua ex? Io ho 4 figli da un precedente matrimonio e divorzio, ringraziando il cielo, in perfetta sintonia, armonia, sì. Armonia, e 2 figli con la seconda. Ho avuto prima i figli e poi mi sono sposato, e questo ho fatto il mio errore, perché il mio matrimonio è durato da Natale a Santo Stefano e quindi ho preso la fregatura, appunto. Anche i regali di Natale. No, capisco, lei segnala invece l'incattivimento di alcuni avvocati. Io sarò stato sfortunato, ma però 3 questa... contro sono avuti e 3 che volevano solo fare lite. Questa è la sua esperienza, gireremo. La mia. Non solo la sua, Sergio. A Roma, io sono a Roma e la mia esperienza è questa, non penso di essere l'unico. Grazie. E gireremo naturalmente questa esperienza anche al presidente degli avvocati matrimonialistici, segnalava tutta un'altra condotta per i suoi colleghi da seguire. E sono tante le tematiche oggi sul tavolo, ma sono unite da un filo comune. Sembra che, adesso abbiamo parlato di divorzi, di figli nati fuori dal matrimonio, ora di religione, iscritti a questo tipo di insegnamento che calano, sembra che gli intransigenti, diciamo così, i severi, tra gli italiani stiano diminuendo. E l'Italia, fotografata da un sondaggio particolare pubblicato dalla Stampa, Laboratorio sulla Società e il Territorio, realizzato da Community Media Research, 4.000 circa gli intervistati, che l'Italia stia diventando sempre più tollerante. Ma è solo una facciata o veramente c'è un cammino che questo paese ha percorso verso l'apertura mentale? Michela Murgia, scrittrice, buongiorno, benvenuta in trasmissione. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Io le sottopongo questa domanda subito, lei come la vede? Non la vedo così rosea come le persone che mi hanno preceduto, perché è innegabile che in Italia esistano 2 registri di comportamento. Uno è quello privato, dove ciascuno si muove secondo le proprie scelte, che rimangono però private, e uno è quello pubblico, nel senso che la proiezione dei vizi privati è sempre pubblica virtù. Quando la scelta personale diventa scelta politica, ci si scopre conservatori. Quindi l'impressione che ho io è che ciascuno e poi per ci suo si conto proclama, faccia quello che crede, e poi ci si proclama invece aperti e libertari. Questo lei sta dicendo, finché non no, tocca... no, no, no, sì, di praticamente ciascuno vive anche senza proclamarsi le sue scelte libertarie, ma nel momento in cui deve indicare un indirizzo al paese, perché sui diritti, sull'apertura ci vogliono leggi, per fare leggi ci vogliono persone che le difendano, se quando vai a votare tu eleggi costantemente una classe dirigente conservatrice, ed è innegabile che in Parlamento anche in questo momento ci siano fortissime resistenze, per esempio al riconoscimento delle unioni delle persone omoaffettive, oppure al riconoscimento della fecondazione eterologa, o a tutta una serie di questioni come il cognome della madre, per esempio, ai figli, che sono altrove sono assolutamente superate e considerate medievali, e da noi invece fanno ancora dibattito politico. Non Ma mi dibattito pare che... politico o anche dibattito sociale? Se, come ci segnala questo sondaggio, pensi che il ricorso alla fecondazione artificiale, in questo caso non stiamo specificando se eterologa o meno, è ritenuto accettabilissimo dall'85% delle persone. La possibilità di richiedere l'eutanasia, altro tema scottante fino a poco tempo fa, 76% delle persone si dichiara favorevole. Il tema dell'omosessualità non è un problema per 3 persone su 4, quindi è la politica che rimane indietro, secondo lei, Michela Murgia? Decisamente, penso soltanto alle modifiche che sono state attuate sull'IDL Scalfarotto, che propone appunto la legge contro l'omofobia e i comportamenti omofobi, è talmente diversa dall'originale che di fatto lascia le cose come stanno. Non sono i sondaggi ad personam, nel senso ciascuno si misura il mondo sui propri riferimenti, è la proiezione appunto che se ne fa. Io penso soltanto al fatto che, faccio un esempio pratico per capire quanto indietro siamo e siamo tornati rispetto anche a qualche anno fa. Dica. Tutto che tecnicamente è la sinistra che ci governa. Il capo della delegazione del PD a Bruxelles è appena nominata, è una signora Theodem, quindi area Binetti, diciamo, che è nota per aver firmato e proposto da firmare il manifesto contro il riconoscimento delle coppie omosessuali in Europa. Quindi siamo tutt'altro che tolleranti. La sinistra italiana si presenta conservatrice in quel Parlamento. Ora io dico, se la classe dirigente è lo specchio del paese, significa che c'è un paese che privatamente fa quello che vuole, ma pubblicamente esige che vengano mantenuti ancora dei parametri conservatori sulle Michela scelte. Murgia, grazie. Rimanga con noi, abbiamo ancora qualche minuto per esprimere le vostre opinioni, le vostre proiezioni, osservazioni all'800 24 00 24. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Sono davvero molteplici e si procede un po' a macchia di leopardo, non solo nella legislazione ma nella scelta dei comportamenti. Ora c'è anche, questo l'ha fatto una banca, chi riconosce le coppie gay e denuncia la legge è in ritardo sulla società. Stiamo parlando del gruppo Intesa San Paolo, che ha deciso di dare congedi matrimoniali ai dipendenti al di là della composizione omosessuale o eterosessuale di chi sta pensando o realizza il matrimonio, perché questo è una risposta concreta che elimina le discriminazioni e garantisce pari opportunità sul lavoro e nei rapporti tra tutte le persone presenti in azienda. Questo è stato segnalato proprio questa settimana dai giornali. Una società civile che si muove un po' da sé in attesa che anche la politica recepisca quello che è il sentire comune. Fabrizio, buongiorno. Pronto? No, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo chiedere all'avvocato. Io sono separato da 11 anni legalmente. Sì. Pronto? Sì, sì. Continui, sì. Sono separato legalmente, il figlio è stato fatto un affido congiunto e poi è stato affidato successivamente a me il bambino dopo circa 6 mesi che ero separato dal tribunale minorile, tutto quanto, con le varie conseguenze, assistenti sociali e tutto quanto. Io da 11 anni non ho mai preso 5 lire di alimenti, perché mi è stato riferito che la mia ex moglie guadagna troppo poco, circa 900 euro al mese e non può passare niente, e più mi ritrovo tutte beghe legali perché affitti che la mia casa, la casa era intestata in affitto, era intestata a me, questa qui non ha mai pagato affitto, non ma ha lei, pagato ma lei cosa intende chiedere? Cioè pensa di essere discriminato in quanto padre, in quanto maschio? Cioè, pensa io penso proprio di sì, perché gli assistenti sociali dicono ma poverina guadagna solo 900 euro e io ne guadagno 1200, mi scusi. Grazie. Non è che ne guadagno molto di più. Fabrizio, grazie, e sappiamo bene quanto costi crescere un figlio. Avvocato, non so, avvocato Gassani, le chiedo, esistono situazioni in cui c'è un occhio di riguardo verso la situazione economica della madre, anche se il figlio è stato affidato al padre? Cioè fosse stato viceversa, lei avrebbe ottenuto questi alimenti? Non conosco. Beh, tecnicamente. Diciamo, penso di sì. Diciamo che in effetti c'è ancora un po' una sorta di discriminazione nei confronti della figura paterna, su questo credo che anche questo è un modo di essere conservatori nel nostro paese. Negli altri paesi se la collocazione stabile dei figli, uomo o donna che sia, la legge è uguale per tutti, devi pagare in proporzione ovviamente alle tue sostanze. Quindi da questo punto di vista l'Italia è conservatrice, in maniera feroce, che in questo lo siamo in tutto, che il cognome materno è tabù. Noi abbiamo fatto un congresso a Roma sulla procreazione medicamente assistita, sull'eutanasia, sul testamento biologico, tutti i tecnici della materia, magistrati, avvocati, siamo d'accordo. Vai a parlarne con la politica, ma non sono nemmeno. Quindi voglio dire, siamo un paese molto moderno da questo culturale, veramente a quello che si pensa, ma siamo un paese che purtroppo è ingabbiato in tante leggi assurde, tant'è vero che gli italiani vanno a divorziare all'estero, perché sono stanchi delle nostre leggi. Gli italiani vanno a procreare all'estero perché c'è il turismo procreativo, cioè gli italiani hanno cominciato a organizzare i voli charter per andare via, per scappare. Quindi io credo che dobbiamo veramente muoverci. Anche la questione dei padri, lo devo dire, i padri separati nel nostro paese sono stati un po' carne da macello negli ultimi anni, dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'affidamento condiviso che non è mai stato applicato. Altro modo conservatore di vedere le cose, la famiglia, che è inaccettabile in un paese civile. Cioè altrove, lei dice, si giudica la situazione anche economica dei due ex, e a prescindere dal fatto che il figlio venga affidato all'uomo o alla donna, l'altro deve contribuire in misura naturalmente proporzionale, sì. Anche se si tratta di una madre. Dire, non possiamo parlare la Costituzione, no? E non possiamo vedere che molti padri, e ripeto, io non sono affatto uno che tira la porta ai padri perché sarebbe vergognoso, io dico quello che vedo. A Roma la Caritas, come a Milano, si sta occupando dei padri separati. A Roma stanno costruendo le case dei padri separati, c'è gente che non ha 200 euro in tasca perché tutto lo stipendio deve mollare, e nessuno va a dire poverino quello guadagna 1200, no, guadagna 1200 ne paga 900 in tenimento. Quindi attenzione a non violare la nostra Costituzione, a non fare del razzismo genitale, perché anche questo è come il razzismo verso gli omosessuali, è verso le mamme che non possono attribuire il cognome ai figli, è verso i nonni che fino a qualche mese fa non contavano niente. È una forma di discriminazione che si poggia su un imprinting della società estremamente conservatore. Lei, avvocato, questo è il problema. Ha il fatto cancro bene, d'Italia è questa mentalità. Ha fatto bene a segnalarcelo. Ora, questa mentalità così conservatrice è dovuta, come spesso si dice, alla vicinanza del Vaticano, all'influenza cattolica? Siamo sicuri, si chiedono alcuni che hanno fatto dei veri e propri studi scientifici sulla società, che una religione un po' più assente, un po' più lontana, poi garantisca la realizzazione di una società più giusta? Forse questo è il tema per una vera e propria puntata, però ci si chiedono queste cose all'estero. Per esempio, i genitori credenti che insegnano ai loro bambini la fede in Dio, quelli atei no, possono essere considerate, anzi queste due scelte, una più corretta dell'altra? La fede contribuisce in modo positivo, negativo, neutro alla realizzazione di una società giusta? Michela Murgia, secondo lei questo conservatorismo, lei punta sempre il dito, è dovuto a un eccesso di intrusione religiosa o è dovuto proprio alla mentalità degli italiani che ha sede anche altrove? Credo credo che le due cose si sposino piuttosto bene, nel senso che l'italiano è certamente conservatore, ma quando parliamo di fede non parliamo di fede personale, parliamo di dato culturale. La formazione cattolica consente che il privato e il pubblico rimangano distinti. La confessione è sempre privata, la condanna è sempre pubblica. Quindi da questo punto di vista non è questione di essere più o meno vicini al Vaticano, è questione che il cattolicesimo consente un'ortoprassi anche a dispetto di un'ortodossia. Credo che siamo molto poco credenti in questo paese, ma non siamo disposti a negoziare le conseguenze che dovrebbero derivare da scelte etiche. Cioè non c'è l'etica alla base delle scelte, ma sulle conseguenze e sulle restrizioni siamo tutti pronti a richiamarci alle radici cristiane. Credo che la fede, più che essere un motore di questo conservatorismo, sia un alibi. Ci diciamo cattolici per non dire che siamo semplicemente conservatori e retrivi. Ha ragione Murgia, ci segnala un'ascoltatrice che si sofferma, un ascoltatore, scusate, Alessandro Mascia, lo leggo con nome e cognome per esteso visto che è molto civile il firmarsi così anche su un SMS. Ha ragione Murgia Michela quando dice non omosessuale, che confina il rapporto al sesso, ma omo affettivo. Quindi le fanno i complimenti Michela Murgia anche per la scelta accurata delle parole, è più completo. E poi naturalmente c'è anche chi sottolinea questa sua delicatezza nel toccare questi temi. Buongiorno Sergio, pronto? Buongiorno, buongiorno a voi. Siamo in conclusione, quindi ci dica, ci segnali quello che vuole. Io volevo fare una piccola distinzione, nel senso che si parlava precedentemente del fatto di sulle coppie di fatto, di come gestire questa unione. Allora, io penso innanzitutto che avere una coppia di fatto è esercitare in un certo modo la propria libertà individuale, quindi io posso scegliere di non sposarmi, di non avere un vincolo diverso di quello che ho scelto, e quindi avere una legge che obbliga in qualche modo o parifica in qualche modo il semplice fatto della convivenza con qualsiasi modo contrattuale, statale o privato. Secondo lei è un segno di... È un errore, perché io liberamente posso anche scegliere di non stipulare un contratto, e questo è anche questo una mia libera scelta, di non esercitare un vincolo. Qualora io lo vorrò, andrò da chi preposto, chiesa, comune, notario, e si sposa, ho capito. E mi sposo, faccio il contratto, se etero, non etero. E questo è l'orientamento esattamente espresso da Ivan Scalfarotto nel corso della nostra trasmissione e che intende seguire anche il governo. Grazie per questa segnalazione di Sergio. Avvocato Gassani, dunque, ha sentito, ancora una volta si sottolinea agli eterosessuali è data questa possibilità. Sì, ma io capisco dove si vuole arrivare. Infatti, pur di difendere l'istituto del matrimonio, si tende a pensare che tutto sommato la convivenza con la nascita di figli sia fondamentalmente una scelta di libertà assoluta, ognuno fa quello che gli pare. Non deve essere così, perché se io ho la mia convivente in ospedale e devo andarla a trovare e non mi fanno entrare, questo non c'entra niente col discorso che stiamo facendo. Se la mia convivente per 30 anni ha mandato avanti la famiglia, io no, al di là del fatto che non mi sono sposato, non posso permettermi di gestire la sua vita o la sua morte e mandarla per strada. Deve esistere un principio di solidarietà, che è un principio tra l'altro mutuato in tutti i paesi dell'Occidente. Quindi non giochiamo sulle cose, su questi concetti. Qua non stiamo volendo creare un doppione nel matrimonio, attenzione, noi vogliamo semplicemente pensare che bisogna riconoscere i diritti di base a tutti quando quel sodalizio familiare ha avuto una struttura molto simile a quella di una famiglia sposata, sono stati messi al mondo figli, sono stati pagati mutui, si è creato quindi un vero e proprio legame, un intreccio di legami familiari. In il questo principio caso, indipendentemente di solidarietà dal pezzo di carta, non puoi dimenticare sottrarti che esistono persone, e non puoi, e non puoi soprattutto fare un piacere all'INPS, perché poi il problema è molto semplice. Ci sono anche altre questioni di carattere pensionistico. Statale. Avvocato, purtroppo dobbiamo concludere. Siamo partiti dallo sfarinamento degli universi simbolici, dalla morale. Gli italiani sono o meno tolleranti e bacchettoni? Questa era la domanda rimasta in sospeso. Concludiamo per oggi. Ci ritroviamo con spunti di vista domani mattina. Un saluto da Irene Zerbini.